Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona domenica. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirci ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Che domenica bestiale. Quanti si stanno avviando o sono già arrivati al lago? Magari quanti saranno anche in barca sul lago? Ebbene, oggi vi faremo fare un viaggio, un lungo viaggio sul lago, perché costeggeremo quella che è la riviera veronese fino a raggiungere il Monte Baldo, e poi andremo anche oltre perché andremo a Malcesine, quindi devieremo a un certo punto, ma devo dire che è un viaggio molto, molto intrigante. Io l'ho fatto un paio di anni fa e non mi faccio pubblicità perché il libro probabilmente non è più in vendita, e si chiama Il gastronauta in Veneto, e è scritto con un amico che è Giancarlo Saran, e abbiamo fatto tutta una serie di itinerari. Io ho proprio fatto questo itinerario, e però oggi lo voglio fare in compagnia di un altro amico che è molto esperto di questo itinerario, molto più esperto di me, ed è Angelo Peretti, che è direttore del Consorzio del Chiaretto, il vino, ma soprattutto è un giornalista, quindi io qui l'ho chiamato soprattutto come giornalista, col cappello di giornalista. Buongiorno, buongiorno Angelo. Buongiorno e buona domenica. Ma tu sei nato in questa zona, in questo itinerario? Io sono nato a Garda, che è la cittadina, il paesino che ha dato nome al lago di Garda, che prima veniva chiamato Benacus dai romani. Infatti c'è le Torri del Benaco. C'è Torri del Benaco, sì. In genere al nord si usa dire Benaco, è un accento sbagliato. L'accento vero è sulla Divina Commedia, nell'Inferno. Dante Alighieri usa Benaco per far rima con laco, quindi è l'unico accento documentato. Ecco, andremo a scoprire tantissime cose, anche delle piccole chicche, magari qualche pasticceria dove c'è un tocco di storia per dei pasticcini. Andremo a scoprire anche che io una volta ho trovato una colomba che era veramente straordinaria, ne ho parlato e mi dicono che poi si sia fatta la fila in questo posto, quindi diciamo scopriremo anche che purtroppo questi laghi di pesce non ne hanno molto, vero? Ma il lago di Garda continua a avere una cooperativa fra pescatori che riunisce ancora una trentina di pescatori professionisti, però ad esempio una specie buonissima come l'alborella, che la chiamiamo aola o agola nell'Alto Lago, è pressoché scomparsa. Quindi ecco, a proposito che parliamo di alborella, ma mi spieghi cos'è il sisam? Il sisam è una ricetta antichissima, di origine tardo medievale. Io ne ho trovato documentazione in un libro del 300 conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia. Il termine deriva da incisamen, cioè tagliuzzato, e si riferiva alla cipolla tagliata a coltello che doveva essere unita in cottura con l'aceto e con il pesce secco, in particolare sul Garda le alborelle, le aule secche. La ricetta è di origine veneziana, è scomparsa a Venezia, rimane come residuo culturale sul lago di Garda, soprattutto nell'alto lago di Garda. Il Garda fu per 400 anni dominio veneziano, quindi ha conservato molte tradizioni veneziane. Ecco, c'è la tradizione vitivinicola. È recente o è molto lontana nel tempo? Le prime attestazioni di vigneti sul Garda veronese risalgono all'età romana, soprattutto nella zona attorno a Colà di Lazise. Si sono trovati numerosi reperti di epoca romana. Diciamo che il grande sviluppo della viticoltura è avvenuto in due fasi: una l'alto medioevo, grazie soprattutto all'abbazia di San Zeno di Verona, e poi dopo la guerra. Però non dimentichiamoci che già a fine 800 il Bardolino, ad esempio, esisteva come denominazione, cioè andavano negli Stati Uniti bottiglie etichettate con il nome Bardolino, il nome di origine diremmo oggi, insomma. Quindi una tradizione piuttosto consolidata, che poi è andata affievolendosi in termini qualitativi con l'arrivo del grande turismo dopo la guerra. Ecco, partiamo da Bardolino. Partiamo da Bardolino, anche se questo viaggio veramente vorrei partire da Valeggio, però così Bardolino, perché tu abbiamo citato il vino. Io sostengo che il Bardolino sia un grande vino da pesce servito in estate a temperatura 13-14 gradi. Tu questo l'hai sempre detto e te ne do assolutamente atto e ragione. Considera che i pescatori del lago di Garda mai abbinano vini bianchi con le ricette di pesce del Garda, addirittura si portano in barca le bottiglie di Bardolino, le attaccano a una fune, le buttano nel lago in modo che in profondità si rinfreschino e poi le bevono fresche in barca. Il Bardolino è un vino tipicamente da bere a 13-14 gradi, anche in inverno. Ecco, è una storia interessante questa. Quasi tutti i pescatori, anche nell'Adriatico, io ricordo la Romagna che credo di conoscere abbastanza bene, hanno sempre abbinato il pesce col vino rosso, cioè in Romagna era abbinato non con il Trebbiano, che è abbastanza frequente, ma con il Sangiovese, e fresco, lo tenevano fresco. Ed è una tradizione che poi è stata smentita dai grandi degustatori, che per carità, bisogna degustare in maniera geometrica, io dico sempre, o aritmetica. Purtroppo invece è molto, molto meglio bere così, come viene, come uno ha voglia di bere. Però c'è questa cosa dei pescatori, non sapevo che fosse anche lì. Ma io ti dico Bardolino, ecco, cosa c'è a Bardolino da vedere? C'è solo questo, il nome che ci coniuga il vino, quindi pensiamo di bere o pensiamo anche di vedere qualcosa? Ma ci sono delle cose secondo me magnifiche da vedere a Bardolino, prima fra tutti la chiesa di San Severo, una chiesa romanica che ha un ciclo di affreschi veramente straordinario, uno dei più begli esempi del romanico nell'Italia settentrionale. E poi io consiglio una bella passeggiata in mezzo ai vigneti sull'eremo della Rocca, che si può visitare oggi, un tempo era un eremo di clausura, tant'è che Alessandra di Rudinì Carlotti, figlia del primo ministro, amante di Gabriele D'Annunzio, si vestì da uomo per entrare a cavallo nell'eremo e venne scomunicata. Poi finì che diventò suora e addirittura in odore di santità, una donna leggendaria, e si può seguire la sua traccia proprio attraversando i vigneti, passando vicino alla chiesetta romanica di San Vito di Cortelline e poi passando all'eremo. Oppure si può andare a mangiare la colomba che dicevi tu o i croissant in quel panificio buonissimo a Calmasino di Bardolino. Ecco, infatti abbiamo detto Condolini e il Contolini, sì, è un piccolo mini market, proprio un negozietto di alimentari nella piazzetta di Calmasino. Loro fanno pane, ma soprattutto fanno dei croissant e a Pasqua delle colombe straordinarie, tra l'altro sbagliate, nel senso che il forno è molto piccolo e allora mettono dentro un certo numero di colombe a forma di colomba e un paio a forma di plum cake. Io quasi quasi consiglio quelle a forma di plum cake, sono meravigliose. Beh, molte volte dagli errori in cucina sono venute fuori delle cose straordinarie. Ma voglio tornare al Bardolino, perché Bardolino è il nome che ha preso, cioè il nome che è stato preso dal territorio, ma ci spieghi qual è l'uvaggio del Bardolino, perché non c'è un vitigno che si chiama Bardolino. No, non c'è un vitigno che si chiama Bardolino. Il vitigno più importante del Bardolino, che incide per l'80% nella cuvée, nell'uvaggio del Bardolino, è la Corvina Veronese. Con la Corvina Veronese a Verona si fa di tutto, si fa un vino rosato che è il Chiaretto, si fa un vino rosso leggero che è il Bardolino, si fa un vino rosso strutturato che è il Valpolicella Ripasso, si fa l'iperstrutturato che è l'Amarone, si fa un vino dolce rosso che è il Recioto da Valpolicella. Cioè a seconda della zona dove cresce e a seconda delle tecniche utilizzate la Corvina dà uve diverse. E poi il complemento della Corvina è la Rondinella, che incide intorno al 20% dell'uvaggio. Poi ci sono altre uve minori sempre meno usate, come la Molinara. La Molinara era un'uva tradizionale veronese che però non dà colore, quindi è stata progressivamente diciamo che è un fratello dell'Amarone, perché cioè, molti l'uvaggio non è completo come quello dell'Uvarone, dell'Amarone, ma ci sono delle uve che sono le stesse. Diciamo che fondamentalmente la differenza è che sul lago di Garda, quindi nella zona del Bardolino, si usano le uve fresche, cioè appena raccolte, mentre in Valpolicella si fa l'appassimento. La differenza è questa, e poi la differenza sono il clima e i suoli. Il lago di Garda lo si deve vedere come un pezzo di Mediterraneo ai piedi delle Alpi, e la Valpolicella la si deve vedere come la prima montagna veronese. Quindi la Valpolicella dà dei vini, lasciami dire, montanari, certo. Mentre il lago di Garda Garda dà dei vini da spiaggia, insomma, no? Dei vini a bassa gradazione. Infatti Bardolino, cioè, dicevo prima, per il pesce sicuramente molto fresco, quindi servito fresco. Ma ecco, ma a Bardolino c'è un posto che consigli tu dove andare a mangiare? C'è qualcosa di particolare? Allora, un luogo di perdizione per me è il Giardino delle Esperidi. Infatti, totalmente gestito da donne, solo donne in cucina e anche in sala, grandissima lista dei vini, e tra l'altro si trovano a bicchiere 30-40 vini al giorno, e anche di etichette o di denominazioni particolarmente rilevanti. Cioè lì ti capita veramente di bere anche a bicchiere bottiglie straordinarie che hanno fatto la storia del vino, oltre ai vini locali. È una cucina, diciamo, che interpreta in maniera moderna e intelligente quelli che sono i prodotti del giorno sul mercato locale. Posto molto carino, piccolino, una bomboniera, 30 posti a sedere. Quindi per appassionati di vino sicuramente è il posto giusto. È il posto giusto, dove si può partire da un Chiaretto, da un Bardolino, perfino a un grande Barolo, un grande vino della Toscana, che so, addirittura una sera ho trovato a bicchiere il Vega Sicilia Unico, che è uno dei vini mito dell'enologia, e lì addirittura lo servivano a bicchiere, cosa quasi impossibile, insomma. Beh, segno che le donne se ne intendono di vino. Le donne se ne intendono sempre di più di vino e fanno sempre più vino. Tu considera che nella zona del Bardolino il 50% delle cantine è di proprietà o in gestione diretta da parte di donne. Quindi è una zona rosa. È una zona rosa. Ma guarda, appena riprenderemo, ora passo la linea alla regia, parleremo proprio con una donna importante del mondo del vino. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirci ti amo, faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Se sul lago ci siete davvero, cari gastronauti lontani in questo momento, avete sentito dove dovete andare a mangiare? Al Giardino delle Esperidi. Però aggiungimi questa cosa che mi hai detto a microfoni spenti, dello champagne, di questo. Beh, io dico che lì è il mio luogo di recupero psicologico, perché Susi, che è la capessa delle donne del Giardino delle Esperidi, è una grande appassionata di champagne, c'è una bella lista di champagne, e quando andiamo là, ahimè, non è mai un bicchiere, non è mai un calice di champagne, ma insomma, ma sono molto di più. Sì. Bene, allora avevamo promesso Bardolino, vino, e a pochi chilometri da Bardolino, Cavaglion Veronese, che è un comune noto anche per l'asparago, se non erro. Assolutamente, l'asparago bianco. L'asparago bianco ha sede in località Colombara, l'azienda vinicola Le Fraghe. Io do il buongiorno alla patronessa Matilde Poggi. Buongiorno. Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, abbiamo parlato di Bardolino. Io sono molte volte, vado un po' fuori e dico che il Bardolino va servito 13-14 gradi con il pesce. Questo lo sostengo da molti anni, non so se tu sei d'accordo. Sì, sono d'accordo. Il Bardolino anch'io consiglio sempre, non solo d'estate, di servirlo sempre leggermente fresco, perché 15 gradi proprio la temperatura massima, che secondo me va bene, perché vengono accentuate al massimo le caratteristiche del frutto e della spezia che ha, e quindi è molto più piacevole berlo fresco. Senti Matilde, negli ultimi anni voglio dire che in passato era un po' così passato in secondo ordine il Bardolino, aveva avuto un momento, poi ora sta tornando molto. Qual è il motivo? Che diciamo la produzione è migliorata, che sono arrivati anche nuovi produttori o vecchi produttori, diciamo, hanno cominciato a commercializzare direttamente il proprio vino? Credo che sia un insieme di fattori. Sicuramente la produzione è migliorata, si è investito molto nella zona Bardolino, nel vigneto, quindi c'è stato un forte rinnovamento, e sicuramente le uve, anche il fatto di vinificarle separate, mentre una volta nei vecchi vigneti venivano tutte le varietà erano mescolate, per cui la Corvina e la Rondinella, che sono le due uve principi del Bardolino, che maturano a 10 giorni di distanza l'una dall'altra, venivano vinificate insieme. Adesso invece gli impianti sono tutti con le varietà separate, questo porta a raccogliere le uve quando sono assolutamente mature, e questo è sicuramente un grande miglioramento, per cui adesso non c'è più quel tannino verde che certe volte nei Bardolini di una volta si trovava. Poi è sicuramente anche molto cambiato il mercato. Io faccio vino da 30 anni e mi ricordo che quando ho cominciato nell'84, per esempio il mercato degli Stati Uniti era abbastanza improponibile proporre il Bardolino. Adesso invece anche negli Stati Uniti cercano sempre più vini da bere. Quindi il Bardolino, che è proprio il vino goloso, il vino beverino per eccellenza, secondo me, anche sul mercato statunitense, che non vuole più vini tanto corposi, tanto legno, tanto alcol, ma cerca sempre più vini per una beva immediata. Ecco, diciamo basta con le barrique, insomma. Quindi andiamo su vini più freschi. Ecco, voglio anche chiederti, tu sei presidente della FIVI, e io non ho mai avuto modo di spiegare durante le mie trasmissioni cos'è la FIVI, però questo può essere il momento. Ci spieghi cosa diciamo questa associazione che è nata da pochi anni? Beh, intanto ti ringrazio tantissimo di darmi la possibilità di spiegarlo al tuo pubblico. Allora, la FIVI è nata nel 2008 e su richiesta dei vignaioli e dei vigneron indépendants francesi, che volevano che l'Italia facesse il gruppo dei vignaioli indipendenti per condurre insieme le battaglie a Bruxelles, perché l'Italia all'epoca mancava. E quindi l'associazione è stata fatta nel 2008, adesso sono più di 900 membri, 900 soci vignaioli, e vignaiolo indipendente significa l'azienda che gestisce in prima persona tutte le operazioni dalla vigna alla bottiglia. Quindi i vignaioli indipendenti hanno le loro vigne, vinificano la loro uva, mettono in bottiglia il proprio vino. Quindi indipendenti dal resto del mondo, insomma. Indipendenti perché tutti, non è il produttore che fa l'uva e poi la porta in cantina sociale, non è l'imbottigliatore che compra il vino già fatto, però tutti i passaggi vengono fatti dalla stessa persona, quindi dalle stesse mani. Ecco, tu hai parlato di battaglie a Bruxelles. In questo momento quali sono le battaglie che sono in essere a cui partecipate? Dunque, direi che le cose più calde adesso sono le strategie sull'alcol, e in questo momento stanno cercando di far passare delle nuove politiche anti-alcolici che sono state messe in piedi dai paesi del nord Europa soprattutto per combattere i problemi di alcolismo. Quello che stiamo cercando noi di far capire loro è che il vino è un prodotto agricolo, mentre tutti gli altri prodotti alcolici sono o prodotti derivati da prodotti agricoli o prodotti industriali, quindi noi non abbiamo niente a che vedere con gli altri prodotti alcolici. E poi quello che cerchiamo di far capire è che le abitudini di consumo degli alcolici, quindi del vino, delle birre, dei superalcolici, nel sud dell'Europa e nel nord dell'Europa sono completamente diversi, per cui non si può, per problemi di alcolismo molto forti che loro hanno e per consumi sbagliati, cercare di imporre determinati atteggiamenti anche nei nostri paesi. E si parlava addirittura di ridurre per legge la gradazione alcolica di tutti i prodotti alcolici, per cui compreso anche il vino, che è assolutamente assurdo, perché il vino risponde a delle regole molto precise, per cui da tot zuccheri arriva una determinata gradazione alcolica, non è pensabile di abbassarla per legge. Ecco, non sarebbe venuto il momento anche di rivedere un po', diciamo, i provvedimenti sui vini biologici e magari ridurre quel tanto di solforosa da 120 mg che mi sembra eccessivo, cioè non, mi sembra enorme, abnorme, e cominciare a parlare anche di una regolamentazione di quello che si chiama naturale, che non si può chiamare naturale ovviamente, o biodinamico, che non ha una regolamentazione ancora comunitaria. Sì, sicuramente queste, io premetto che FIVI non rappresenta produttori biologici o biodinamici, ma rappresenta tutti i produttori, certo. Quindi noi abbiamo sia convenzionali che biologici che biodinamici, però sono d'accordo con te, assolutamente sarebbe ora, diciamo che il regolamento dei vini biologici è già stato preso in mano e se ne sta già parlando, perché si è visto che la legge che è uscita poi nell'agosto del 2012, certo, è una legge che ha affrontato le cose a metà. Fai buchi. Quindi bisogna, andare un po' più profondamente, sì, e anche sul vino naturale non è mai stato definito, ritengo anch'io che non sia una cosa solo di moda e quindi assolutamente necessario prendere in mano anche questo settore. Bene, io ti ringrazio, grazie a Matilde Poggi, azienda Le Fraghe a Cavaillon Veronese, dove mi pare che ci sia anche una produzione di ottimo olio in quella zona. Ma è una delle zone più vocate per la produzione di olio extravergine di olivo, diciamo che la differenza fra lì e l'Alto Garda è sostanzialmente nelle altezze delle piante. Lì sono alberelli coltivati un po' secondo lo stile toscano, si passa a Punta San Vigilio e le piante di Casaliva, che è la varietà principe, certo, del Lago di Garda, crescono ad alcuni metri di altezza. E poi si arriva a Malcesine, dove è una zona vocatissima. Là è la capitale della Casaliva, là praticamente 99,9% degli olivi sono della varietà Casaliva. Bene, devo dire che abbiamo parlato di Bardolino, ma nel prossimo stacco parleremo di tortellini. Andremo a Valeggio, da dove dovevamo partire, ma siamo andati avanti, ora torneremo indietro. I nostri amici in barca devono fare una retromarcia. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità continueremo a vivere insieme le grandi storie dello sport in un doppio appuntamento estivo. La domenica alle 16.30 e il sabato mattina alle 6.10. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Domenica ti porterò sul lago. Vedrai, sarà più dolce dirci ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Continuiamo a essere sul lago, l'avrete capito, e qualcuno in barca ci sarà di sicuro, noi non ci siamo, purtroppo siamo al caldo, ma vabbè, col pensiero ci siamo. E ora, come ho detto, andiamo a Valeggio sul Mincio, e poi parleremo anche di Borghetto, perché è un posto fascinoso, uno dei posti più fascinosi che ci sono in Italia. Ma mi vuoi parlare un po' di Valeggio, perché anche Valeggio è molto interessante da visitare. Valeggio è bellissimo, merita sicuramente una deviazione. Intanto siamo sul Mincio, siamo sul fiume, lungo fiume. È bello vedere alcune aree di Valeggio, intanto le colline moreniche, molto dolci, piene di vigneto, ricchissime di vigneti, ed è bello andarci in bicicletta, eh? Un'alternativa alla spiaggia può essere soprattutto quella di girare in bicicletta in mountain bike. Ci sono colline, delle spiagge, sì. No, beh, Valeggio siamo già Ma sul Garda ci sono? Sul Garda ci sono tantissime spiagge, in genere pubbliche, sono rarissime le spiagge private, sono spiagge in genere ghiaiose, per cui bisogna adattarsi alla ghiaia. Bisogna anche essere prudenti nel bagnarsi, nel senso che il lago, soprattutto da Punta San Vigilio in su, assume rapidamente delle profondità notevoli. Però nuotare al lago è magnifico, con queste acque, con le correnti che portano freschezza. Tornando a Valeggio, dicevo, bellissime le colline, bellissimo il ponte Visconteo che sta sopra Borghetto, bello, molto bello il castello Scaligero, ma soprattutto il Parco Giardino Sigurtà, che è uno dei più bei parchi botanici italiani ed europei. E poi c'è Borghetto. Ecco, Borghetto lo lasciamo, tienlo lì, che poi continuiamo, diamo una chicca alla volta, non possiamo dare tutto, perché ora andiamo però a un ristorante molto, molto noto, anche perché, diciamo, Valeggio ha un simbolo importante, che è il tortellino col nodo d'amore. Ma abbiamo con noi Nadia Pasquali, che è del ristorante La Borsa di Valeggio, che è sicuramente forse il punto di riferimento più noto. Buongiorno signora Pasquali. Buongiorno a lei, buongiorno all'amico Angelo Peretti, buongiorno ai radioascoltatori. Senta, da quanti anni fa tortellini lei? Ma io da 27, la mia famiglia invece da 55 anni, siamo nati nel 1959, abbiamo le mani in pasta, direi che solo Valeggio non ha un'accezione negativa avere le mani in pasta. No, ma scommetto che quando lei va fuori, va a mangiare da un'altra parte, i tortellini, anche se va a Bologna, non li vuol mangiare, mi dica la verità. No, li mangiamo ovunque perché si cresce solo conoscendo. Ecco. Mi dica un po' il segreto dei tortellini, c'è un segreto, la sfoglia, il ripieno, qual è il segreto? Sì, direi la sfoglia perché è una sfoglia trasparente millimetrica, tanto da volerla chiamare, insistere a chiamarla un drappo di seta gialla, questo è 0,3 mm e racchiude un brasato di carni miste, quindi una ricetta completamente diversa dalla ricetta emiliana, di cui andiamo molto fieri perché è naturale ed è la naturale espressione del territorio. Ecco, come nasce il tortellino, la tradizione del tortellino? C'è un'origine, c'è stato qualcosa che diciamo... Ma si perde nella notte dei tempi, probabilmente perché a Borghetto c'era appunto un importante centro molitorio, i mulini di Borghetto erano macine di granaglie e quindi presumiamo che già 700 anni fa si facesse pasta, se non proprio tortellino, è per questo che dico che è importantissima la pasta per Valeggio. E è di 700 anni fa anche la prima insegna di locanda, erano quasi tutte locande di posta perché Borghetto era uno dei guadi del Mincio e quindi si fermavano i viandanti fra le tre province principali, Verona, Mantova e Brescia, per cambiare i ferri e i cavalli e per pranzare o desinare. E il tortellino è importante a Valeggio, l'importanza attuale circa dagli anni 50, ossia quando le brave massaie, che erano donne di servizio nelle famiglie nobili di Verona, decisero invece di aprire bottega a Valeggio sul Mincio, un po' anche la storia della mia mamma. La mia mamma era a servizio a Milano e poi ha incontrato papà e si sono messi ingegnosamente a lavorare questo manicaretto, che è di una semplicità unica ma non è mai banale. Ecco, voglio chiedere ad Angelo, cos'è questa storia dell'anello, cioè questa storia del nodo d'amore? Ma è una leggenda moderna, sì. Diciamo che è un inventore straordinario, che è un grande orafo, che è Zucchetta, e ha voluto così ricordare in una storia, in un racconto, in una narrazione, l'amore molto simile alla vicenda di Giulietta e Romeo, l'amore fra un cavaliere e una donzella del posto, che poi si è concretizzato in questo ricordo di questo anello, di questo amore tormentato, che identifica di fatto il tortellino valeggiano. Tanto è una zona di storie importanti, perché prima si diceva dei mulini. Pochi sanno che il mulino del Po di Riccardo Bacchelli in realtà era a Borghetto, era a Valeggio, perché Bacchelli passava le vacanze estive a Garda e quindi conosceva bene la zona e ha ambientato nella zona. Mi sembra di capire che a Valeggio la leggenda del nodo d'amore voglia un po' riprendere l'ombelico di Venere di cui parlano i bolognesi per la storia della nascita del tortellino. Sì, ma attrae molto, tant'è che la festa del nodo d'amore che fanno sul ponte Visconteo, proprio di Valeggio, di Borghetto, attira tutti gli anni migliaia di persone. Ma quando c'è questa festa, te lo ricordi? Ma questa è stata 3 settimane fa, è proprio recentissima. Quindi peccato, perché sennò i nostri amici in barca sul lago potevamo consigliare questo. Ma no, ma voglio, Nadia, voglio chiederle questo. Sì, il tortellino, ma ci sono altri piatti del territorio così che lo caratterizzano? Altri tipi di tortelli fatti con le verdure di stagione, la pasta lunga, naturalmente il pesce di lago, perché Valeggio fruisce anche del bacino del lago di Garda e poi si beve bene a Valeggio, si bevono appunto i vini delle colline Morelli, ecco. Che non bisogna dimenticare anche quello, che è una terra ubertosa sotto tanti profili. Tortellino innanzitutto, ma asciutto in brodo? Asciutto in brodo? È una vexata questio, io direi in inverno in brodo e in estate asciutto, anche se la morte del tortellino in brodo, il nodo d'amore va gustato in brodo. In realtà io credo in brodo tutta la vita. In realtà non so se Nadia è d'accordo, ma io suggerisco sempre, quando si va a Valeggio, magari da Nadia, di fare la verticale dei tortellini, come si fa le verticali dei vini, far la verticale dei tortellini, cioè partire dai tortellini con il ripieno più semplice e crescere con dei piatti con il ripieno più complicato. Guarda, io sono Roma spagnolo, per cui io mangio il cappelletto, che è abbastanza simile, anche se anche in Romagna si divide in due aree, perché c'è l'area con carne e l'area senza carne, quindi un'area interamente di formaggi. E che non stavo dicendo che era vegano, ma non è vegano assolutamente, perché sono formaggi. E io dico sempre brodo 100 volte, perché secondo me il tortellino, il cappelletto asciutto perde. Ma abbiamo parlato di vini, abbiamo parlato di vini, e ora arriviamo a un vino che, caro Angelo, a te è caro, ma soprattutto lo è a Franco Cristoforetti, che è presidente del consorzio del vino Chiaretto. Buongiorno Cristoforetti. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Beh, devo dire che è uno dei vini del momento, perché ultimamente non si parla altro che del Chiaretto, di questi successi americani, di questo successo, di questo colore. Io dico la verità, insomma, il colore influisce molto ultimamente nel grande successo, perché vedo proprio che c'è una ricerca di colore, ma anche un buon vino, per carità. Cristoforetti, il colore incide? Ma sicuramente il colore oggi interpreta una delle sensazioni del momento, che è questa voglia di freschezza, questa voglia di leggerezza. Il nostro vino bene interpreta questi argomenti, come diceva prima Nadia, un prodotto semplice ma mai banale, un prodotto che riesce ad accompagnare la nostra tavola locale. Penso ai tortellini, li possiamo veramente accompagnare tutti, dal ripieno più semplice fino alla carne brasata. Ma accompagna veramente la cucina che oggi è di tendenza, per cui prima tu hai accennato ai vegani, è assolutamente un vino ideale per la cucina vegana, con le verdure, ma con i pesci, con la leggerezza estiva. È un vino che si sta anche sdoganando dal consumo estivo, proprio per questo colore che mostra un'eleganza che poi si ritrova anche al palato e al naso. Ecco, voglio chiedere a Angelo, c'è un amico americano che mi diceva che in America c'è proprio una tonalità dei vini rosati che ha successo. Sì, la tonalità è quella chiara, non c'è niente da fare. Guarda, per citare un vate della critica enoica, che è Hugh Johnson, qualche tempo fa scrisse un articolo dicendo che aveva chiesto consiglio all'enotecario della Provenza che gli consigliasse qual era il vino migliore tra i tanti esposti, e quello gli ha detto: prenda quello più chiaro ed è più buono, perché c'è proprio la tendenza verso il colore chiaro a livello globale. Negli Stati Uniti il colore che va di più è quello della scorza del lici, della buccia del lici, di questo, a volti la chiamano ciliegia del deserto, no? Addirittura andiamo sul sofisticato. Senta Cristoforetti, ma ultimamente siete cresciuti anche come produttori, c'è un tempo così eravate meno esposti, meno evidenti, meno pubblici. Cos'è successo? Forse il successo del vino che vi ha portato a questo? Ma il nostro territorio è riuscito, attorno proprio a questa scommessa della nostra denominazione, di trovare una nuova vita per il Chiaretto, che è un vino che ha radici molto ben profonde, perché nasce circa negli anni 60, e attorno a questa nuova ricerca del colore che potesse essere la caratteristica veramente identificativa del nostro territorio, anche la produzione è diventata consapevole di essere una parte importante del ricco panorama veronese, e stiamo godendo appunto una visibilità che, attraverso il successo del Chiaretto, che sta sfondando mercati che per noi erano fino a poco tempo fa molto lontani, come il Nord Europa, il Nord America, che cercano in prodotti come il nostro una nuova tendenza del bere, e soprattutto è il nuovo bere delle generazioni che si, i famosi millennials, che si stanno avvicinando al consumo del vino. E credo che in questo abbiamo trovato la visibilità di cui stiamo godendo. Voglio tornare da Nadia Pasquali, voglio chiedergli se ci sono dei dolci anche molto legati al territorio. Sì, ci sono dei dolci, uno in particolare ha un nome romantico, è stato inventato per Isabella d'Este, della torta delle rose, ed è, diciamo, una pasta lievitata, ricca di burro, molto coinvolgente nella sua semplicità. Ed è, diciamo, l'espressione della parte dolce della cucina valeggiana, non l'unica. Recentissimi tortellini di cioccolato, naturalmente con la sfoglia sempre molto sottile, ma di cioccolato, che racchiudono una granella di nocciole piemontese e la famosissima Nutella, Direi questi due sono quelli più emblematici, anche perché con la quantità di carboidrati che si introduce con un piatto di tortellini, non me ne vogliano le signore che non vogliono sentir parlare di dieta in estate, diciamo il piatto di tortellino, il nodo d'amore, i nodi d'amore possono bastare a una dieta completa ed estiva. Grazie Nadia, grazie. No, se permetti Davide, io da Nadia, però insomma, le pesche sciroppate che fanno a Valeggio, guarda, pesche di Valeggio sciroppate, sono meravigliose. Però voglio una pennellata su Borghetto, perché è un posto veramente fascinoso, quindi io dico che è uno dei posti che più mi ha colpito, perché veramente una volta che sei lì... Ma Borghetto è bello da vedere ed è bello da ascoltare, cominciando ad ascoltare il suono del fiume, il suono del fiume con la cascatella è strepitoso, e poi ci sono questi vecchi mulini trasformati in ristorantini, bed and breakfast, sono meravigliosi, e lì Luchino Visconti ambientò la scena più famosa di Senso, del famosissimo film. Bene, da Borghetto ora chiudiamo... Però ve lo raccomando, andate a Borghetto, perché è veramente un posto da visitare, uno di quegli angoli d'Italia che sono straordinari e magari sono poco conosciuti. Lina alla regia, torneremo fra poco e continueremo questo viaggio. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Continuiamo questo viaggio, ci stiamo avvicinando verso la tappa finale che è a Malcesine, però facciamo uno stop a Brenzone, anzi sul porticciolo di Castelletto di Brenzone, dal pescatore. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Buongiorno a Livio Parisi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Parisi. Abbiamo messo questa canzone in suo onore, anche se lei non è un pescatore. Grandiosa. Anche se lei non è un pescatore, ma è uno che racconta di pescatori e di pesci. Quindi a lei voglio chiedere un po' cos'è rimasto nel Garda di pesci. Dunque, io direi che intanto complimenti, questa canzone che mi commuove sempre, è una cosa strepitosa. I pesci ce ne sono tantissimi. Forse mancano i pescatori. Noi facciamo solo pesci di lago e abbiamo adottato da tanti anni a questa parte questa politica della mancanza di lista cibi, perché noi accogliamo a braccia aperte quello che la natura offre quotidianamente. Ecco che ai nostri ospiti offriamo quello che Dio o la natura ci dà, insomma. Ecco, ci vuol parlare di quali sono questi pesci che appunto non possono arrivare tutti i giorni, ma appunto ogni tanto arrivano. Tolti il periodo di richiusura della pesca e i divieti per consentire la riproduzione del pesce, e noi spaziamo da tantissimi pesci, dalle sarde, dal cavedano alla tinca, alla trota di lago rara in questo momento, al lavarello molto usuale in questo periodo e via dicendo. Insomma, cioè abbiamo tantissime specie, e che è un pesce assolutamente delicato, è un pesce che bisogna trattare secondo i canoni antichi dei nostri pescatori, e trattarlo vuol dire trattarlo in cucina, insomma, ecco, con delicatezza, essendo un pesce delicato, insomma, ecco. Le sarde poi vengono essiccate, c'è cioè anche, diciamo, anche queste... No, a dire la verità, l'essiccatura delle sarde è una pratica più dei laghi prealpini tipo Como, eccetera, eccetera. Noi le conserviamo sotto sale, a parte che la freschezza della sarda è incredibile, ma le conserviamo sotto sale per i vigoli e le salse, insomma, ecco. Quindi viene essiccata sotto sale. Esattamente. Ma devo dire però che ultimamente c'è un nuovo interesse per il pesce di lago, e ammesso che questo possa portare poi anche a convincere molta gente a ripescare, perché posso fare degli esempi a Milano, c'è ad esempio Cesare Battisti di Rattanà che utilizza molto il pesce di lago, poi c'è un grande chef come Paolo Lopriore che dopo la sua permanenza a Como si è innamorato del pesce di lago. Ecco, io credo che in questo paese manchi poco questa tradizione, sia poco sentita. Le spiego subito perché. Il pesce di lago, io lo definisco anche nei miei scritti così, un illustre sconosciuto, ma anzi, forse ancora di più, dai locali, un illustre ripudiato, perché richiama alla memoria storica dei locali tempi di miseria, da quando si pescava quattro sarde o quattro alborelle e si raccoglievano quattro gradi d'oliva, questo richiama alla memoria un tempo passato fatto di miseria. E invece adesso noi stiamo riscoprendo questa grande, straordinaria, incredibile cultura locale, però ci vogliono almeno un paio di generazioni o forse tre per lasciare alle spalle questa cultura del passato, insomma, ecco. Rimanga con noi, Livio, perché ora chiedo a uno chef di Malcesine, un vecchio amico, Leandro Lupi, buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti voi. Ma tu lo utilizzi ancora il pesce di lago? Ma indubbiamente sì, sai che insomma negli ultimi 10-15 anni me ne sono fatto un po' bandiera, come si suol dire. Un pochino differente dell'amico Livio, io cerco di modernizzarlo e cerco di trasformarlo in un piatto un po' più gourmet, un po' più invogliante. Uno degli ultimi piatti proprio nato pochi mesi fa, che sembra un po' a raccontarlo è peggio che a mangiarlo, come ogni tanto dico io, è questa trota marinata che servo con una zuppa fredda di cioccolato bianco, raffano e il caviale di trota che lo affumichiamo leggermente. Nel mangiarlo, e questa è una soddisfazione che vedo tutte le persone che vengono da noi, dicono: ma sai che è proprio buono, è di un equilibrio pazzesco. E questa è una soddisfazione, no? Ma io voglio chiedere a Livio Parisi una cosa. Invece cosa, come lo cucina, com'è cucinato nel suo ristorante la trota di lago? Perfetto. Allora, intanto preciso che la trota di lago è estremamente, assolutamente rara. Vorrei replicare un attimino agli amici carissimi Leandro e Angelo. E io mi considero un apostolo del pesce di lago, un geloso custode della tradizione, e nei miei piatti abbino volentieri la cucina veneziana, di cui siamo eredi straordinari di quattro secoli di dominazione veneziana, quella mantovana eccetera eccetera, ma non disdegno assolutamente le novità meravigliose che mi vengono proposte, assolutamente. Ecco, la trota di lago, intanto qui devo fare una parentesi tonda, brevissima, la chiudo subito. E diffidiamo dai ristoranti e i gardesani che mettono fuori cartelli trota, carpione eccetera eccetera. La trota di lago, possono confermarlo sia i miei amici Angelo che Leandro, è assolutamente rara, quindi quando arriva la trota di lago la cucino nel modo più semplice possibile, o al forno incartucciata senza nulla, oppure bollita senza nulla, poi con maionesina fatta con l'olio extravergine d'oliva, delle salsettine di verdurine eccetera eccetera. Però è importante sottolineare che bisogna essere anche, giustamente come dice Leandro, bisogna conciliare la tradizione assoluta con l'innovazione, perché nessuna cosa procede senza innovazione se non c'è il culto della cultura tradizionale. Ma guardi, io affermo sempre che la tradizione è un'innovazione riuscita. Perfetto, perfetto. Quindi devo sono dire che... assolutamente. Perché tutti pensano che la tradizione sia un fatto fermo, in realtà qualcosa di vecchio, obsoleto, sì, certo. La tradizione è sempre in movimento, un fatto antropologico in movimento, quindi cioè pensare che la tradizione, poi la tradizione non si può datare, perché sento molti che dicono è tradizione perché 30 anni, non è detto, può essere anche tradizione dopo 5 anni, cioè che la tradizione è qualcosa che si ripete e che si evolve, quindi giusto vedere queste differenze. Ad esempio, molto interessante questo esempio che abbiamo fatto di queste due trote, perché secondo me è importante, cioè verificare appunto e anche seguire i gusti di chi vuole mangiare in maniera tradizionale. Io lo dico per i miei radioascoltatori, avete sentito due modi completamente diversi di fare la trota, poi uno può andare da Leandro Lupi o può andare al pescatore sul porticciolo di Castelletto di Brenzone. Ma se permetti, tu in questo momento hai in trasmissione le due persone che hanno in qualche maniera riportato alla ribalta il pesce del lago di Garda. Livio è stata la persona che ormai 30 anni fa, mettendo in piedi il campionato comunale dei bigoi con le agole a Brenzone, è tornato a convincere i vecchi pescatori dell'Alto Lago a fare il loro antico mestiere, e le casalinghe, le massaie e i ristoratori, i cuochi del lago, a tornare a proporre il pesce. Leandro ha portato la ventata di novità, ha portato la nuova interpretazione. Lione. Come dicevi giustamente tu, bisogna visitare entrambi questi tipi di ristoranti e questi tipi di cucine, che meritano perché rappresentano il Garda in tutti i suoi aspetti. Livio, abbiamo sentito citare le agole, ci spiega cosa sono? Lo spiega ai nostri radioascoltatori? Le agole sono il nostro pesce classico che ha nutrito nei secoli scorsi, nei decenni scorsi, generazioni e generazioni. Adesso sono, non dico scomparse, ma sono scappate via da qualche decennio a questa parte, e sono il pesciolino Albunus alborella, il pesciolino tipico del Garda. Però il lago di Garda, non voglio fare allarmismi, ha dimostrato che il pesce di lago ha una sua ciclicità, ovvero luccio ad esempio, o persico ad esempio, dati per scomparsi 15-20 anni fa, sono ritornati alla grande. Ci sono dei segni per cui l'alborella sta ritornando. Non solo, l'alborella manca per una strana sorte della natura in tutti i laghi prealpini, il Como, Maggiore, Iseo, eccetera, eccetera, quindi sta ritornando. E questo è un pesce meraviglioso che aspettiamo con ansia, ma che tornerà. Bene. Assolutamente e sicuramente. Un'ultima battuta a Leandro. Leandro, tu sei in un territorio fantastico per l'olio d'oliva extravergine. Volevo sapere, l'ultimo anno è stato nato un anno orribile per tutti, anche da voi? Sì, è inutile nascondersi dietro il filo d'erba e chiedere se poi mi vedi, vuol dire che se non mi vedi vuol dire che sei nascosto bene. Sì, poi come in tutte le cose c'è chi ha salvato il salvabile, ci sono dei piccoli produttori, fortunatamente la nostra zona è fortemente interpretato da piccoli produttori o da piccole cooperative di produttori, che poi in realtà sono veramente piccole, e sono riusciti a salvare il salvabile, diciamo. Quindi quest'anno abbiamo sicuramente, non è l'olio del Garda con la maiuscola, è un olio, chi l'ha fatto, chi è riuscito a farlo, perché qualcuno proprio non è riuscito, certo, a farlo, è un olio decoroso, rimane buono, rimane ancora, tra quelli che ho assaggiato io, ho avuto la fortuna di assaggiare ancora uno, visto l'annata, con una delle acidità più basse, nonostante l'acidità quest'anno sia alta un po' per tutti, e quindi sicuramente rimane sempre un olio di pregio. Ecco. Grazie Leandro, chef patron del ristorante Vecchia Malcesine, Livio Parisi, diciamo che storico del pesce, nonché coproprietario del Pescatore sul Porticciolo di Castelletto di Brenzone. È un grazie particolare a chi ha condotto con me questa trasmissione, che è stato Angelo Peretti, che ha fatto da Virgilio attorno al lago di Garda. Bene, vi saluto, vi do appuntamento domenica prossima, un caro saluto e buon divertimento da Davide Paolini.